portavoce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jar. Quindicesima puntata. Come donna. Fra tutti i miei amici, Alalla. Una volta ricordavo la data delle battaglie, il numero degli uomini e dei cavalli, i nomi dei miei allievi di 10 anni prima. Avrei passato in rivista un battaglione di veterani, riconoscendoli uno a uno. Adesso voglio scuotermi di dosso i nomi, come un cane la pioggia. Starò seduta a immaginare. Annuserò l'odore del vento serale, divenuto puro e cristallino, dopo aver soffiato per migliaia di chilometri attraverso il deserto. Voglio morire in piazza San Marco, la testa sulle ginocchia. Scomoda e vistosa, però, un'agonia in mezzo a una piazza. Troverei poi di sicuro qualcuno che si sbarazzerebbe di me trasportandomi all'ospedale, dove morire nei limiti igienici d'un letto dietro paravento verde. Sospetto un che di proibito nell'immaginare per conto mio alla mia età, un immaginare gratuito che non rende proprio nulla, né una pagina scritta né una speranza di concretezza. C'è in un simile immaginare un dubbio di empietà, un'intenzione di sostituire un atto di fede che è appunto fine a se stesso. Mi sarà almeno consentito di morire come il Fuffi, il gatto siamese che dopo un trasloco si rifugiò in un vecchio armadio della biancheria e là si preparò alla morte, dormendo tra pile di lenzuola di bucato. Non mangiò più, non pisciò più, apriva gli occhi nebbiosi, miagolando, quando il padrone lo veniva a prendere per l'iniezione quotidiana, che oggigiorno tocca anche ai gatti, ma tant'è, bisogna pur darla una soddisfazione a chi ti sopravvive. Il pelo perse lucentezza e sotto il Fuffi dimagriva, chiaramente inteso a scomparire poi del tutto e per sempre dentro l'armadio della biancheria. Alla fine la lapide con nome e data, sempre sull'armadio si intende, anche ciò per accontentare chi ti sopravvive. Nel mio immaginare continua a esserci un che di lucidamente pedestre, sempre trattenuto dentro la quotidianità delle immagini. Finirò con il visitare, fantasticando, deserti e altitudini in viaggi di comitiva. Tutto sommato un immaginare di basso costo, quasi lecito, di una modestia di balconcini fioriti e di armadi della biancheria. Alla televisione scelgo volentieri programmi che non sollecitino né commozione né pensieri. Se cedo davanti a occasioni straordinarie, che siano film o balletti o concerti o un'opera, mi capita di piangere. E così piango leggendo e rileggendo gli stessi libri e addirittura le stesse pagine, incerto se leggo o ricordo, generalmente pagine di prosa. La poesia mi commuove di rado, neppure quella tedesca, ma prendo a ripetere tra di me, nel solito recitare mutilo, versi del Leopardi e persino del Petrarca. Vicino è forse il tempo in cui piangerò dicendo «dolce e chiara è la notte e senza vento». E non so se piango per una malinconica invidia o piuttosto perché dalla bellezza di quel che è così perfetto che non potrò mai ricrearlo sento sempre più vicino l'addio. Anche il mio pianto è però lucidamente pedestre, poiché ormai zappetto proprio in superficie l'humus definitivo degli anni che rimangono. Mi pare di portare poco alla luce e la mia curiosità verso me stessa, deposte le finzioni di donna, mi resta da scoprirmi negli incalliti sedimenti su cui crescerà la vecchiaia. È perciò curiosità un po' spaventata. Com'è possibile che io non desideri veramente nulla oltre la vita per i miei figli e l'assenza di dolore per me? A che punto? E in che modo? E come mai non me ne sono accorta? E da quale vortice è stato risucchiato il colmo delle emozioni? Ho sognato, nei mesi che seguirono l'isterectomia, che mi cadeva un enorme e sanissimo dente bianco. Ciò mi irritava e inquietava, però nel sogno continuavo a ripetermi: non fa niente, me ne faccio mettere uno falso. Continuo dunque ad avere fiducia nell'artificio, negli esercizi per i poliomelitici, nell'imperfetto dei bambini. Facciamo che tu eri la mamma e io ero il papà. Se piango su un capolavoro, forse la mia malinconica invidia è, per finire, quella per un artificio irraggiungibile. Potrò chiamarla emozione, questa invidia? Nel futuro do forma a un'immobile pigrizia in cui immergermi come nel mare ancora tiepido del calore estivo, il sole un poco più basso sull'orizzonte, la spiaggia vuota, il mare di Carrara in cui Giorgio mi insegnò a nuotare. Cerco con fermezza di tenere davanti a me quei giorni che sono dietro di me più di 30 anni. Avevo raggiunto Giorgio a Carrara, nella sua casa di Fossola, in settembre. Mi sarei sposata l'anno successivo. Conoscevo Gianni da 3 mesi e cercavamo una casa, soltanto la difficoltà di trovarla ci aveva appunto impedito di sposarci subito. Giorgio sarebbe poi partito qualche anno dopo per l'Argentina, dove si sarebbe sposato a sua volta. La mattina Giorgio ed io comperavamo la focaccia ancora calda in un forno di Fossola e dell'uva bianca, sarebbe stato il nostro pranzo, e prendevamo il tram che ci conduceva alla marina, lo stesso che portava avanti e indietro i marmisti che vedevo seduti, esausti, sui sedili. Sulla spiaggia c'eravamo solo noi, era un bel settembre e al sole facemmo la vendemmia nel vigneto ai piedi dell'orto di Giorgio. Mi insegnò dunque a nuotare. Non mi sgridava mai e mi lodava sempre. Le 2 prime bracciate che mi riuscirono furono un battesimo alla vita corporale, ripetuto da allora tutte le volte che nuoto. Ancora oggi ritorno dalla piscina sfogata nelle membra e nello spirito, anche se odorosa di cloro. Dopo il bagno ci stendavamo sulla sabbia e Giorgio mi insegnava il bridge, che da allora non ho mai più giocato. Piantavamo le carte nella sabbia e non parlavamo proprio di nulla finché soltanto il sole che si abbassava sul mare ci rimandava a casa. Può darsi che proprio nell'artificiosità, nel costruirsi le emozioni, si perfezioni la vecchiaia. Quando, adulto e rinsecchito pelle rossa, sto seduto in una cerchia di giovani e li istruisco, non sulla base delle mie esperienze, come per ogni medicine man la mia esperienza è solo quella collettiva, provo una tranquillità, un allargamento sicuro nello spazio, di certo diversi da quando, più giovane, non riuscivo mai a staccarmi dalla coscienza di me. Nemmeno alle donne giovani racconto vicende personali, ma presento volentieri esemplificazioni negative, quanto ero goffa, imbarazzata e ingenua. Che coprano il risolino, io me la sono cavata, vediamo che cosa sai fare tu. Ma come già la nonna mi compativa, anch'io compatisco le donne giovani e cerco di non pesare su di loro e di nascondere gli inganni che le aspettano. Eppure mi chiedo, non sarà poi la solita dabbenaggine, che non è innocenza ma estraneità, che mi spinge a raccontare favole a chi queste fole le ha già sviscerate e dissolte? Una delle mie attuali fantasie di fuga. Sto seduta sola sulla spiaggia, di fronte al mare, e lontano sull'orizzonte il veliero Bounty. Sto proprio sulla linea d'arrivo delle onde, in costume da bagno, la testa nascosta da un grande cappello di paglia, gli occhiali neri sul naso. Leggo. Intorno sento delle donne ciancottare delle loro solite storie e immagino di apparire, curva sul mio libro, il mento nascosto dalla mano in un gesto che sale addirittura a ricoprire la bocca mentre guardo lentamente sul mare, come una vecchia zitella inglese. Infatti sono pulita, non metto a bagno mutandine nel lavabo, amo il capo dei vigili e il principe ereditario. Sciolgo e annodo così legami facili da stringere e districare, e inoltre riconosco nelle loro storie, di loro, le donne, la dimessa e sensata lucidità delle mie fantasticherie. Forse c'è sempre stata una vecchia donna in me. Non sono stata bella, di una bellezza non mediata, in una famiglia di donne belle, la nonna, mia madre, mia sorella e oggi mia figlia. Adesso, guardandomi nello specchio, trovo belle le mie rughe, ma un istante dopo non ci penso più. Non mi importa che i miei nipoti mi assomiglino. Non mi è mai importato del resto che i miei figli mi assomigliassero. Anch'io somiglio poco ai miei genitori e i mesi sono ripetuti alla rinfusa elementi eterogenei, ereditati da tutti. Le scarse sopracciglia di mia madre, lo sguardo acuto e lucido che ricordo in mio padre, per quanto i suoi occhi fossero neri come quelli di mia sorella e i miei siano castani. Ho i bei capelli della mia nonna paterna, le mani grandi e lunghe di mio padre, la bella carnagione di mia madre. Ma nell'insieme sento di essere contenuta entro un io interiore senza fattezze. E mi pare di assomigliare, a tratti, soltanto a mia sorella, dalla quale sono tanto dissimile, ma anch'io, quando rido e piango, arriccio il naso. Come donna, sono dovuta nascere da me stessa. Mi sono partorita insieme ai miei figli, eppure ho sempre pensato e fantasticato e desiderato uomini. Persino l'opera, che sta oltre l'attrazione e anzi raffredda e allontana l'intimità, portava un adorno piumaggio di richiamo. Avrei voluto in vero essere una donna, ma non mi sentivo immediatamente tale. Quel mio io interiore, privo di fattezze, era pur privo di sesso. Tra il mio volere e l'essere stava un'indecisione. E perciò il più felice momento della mia vita, la trionfale conferma che ero effettivamente una donna e da qui la scelta definitiva di esserlo, fu l'attimo in cui sentii staccarsi da me la mia bambina, con un lieve però nettissimo taglio indolore, precedente, ma a me parve contemporaneo, la presa con il forcipe, esattamente come si stacca un frutto dal ramo. Ancora oggi, in lei sono donna. Mi piace camminare dietro di lei, anonima, nascondermi nella sua bellezza. Lei procede sicura per il vivaio dove sta cercando una vite da regalare. Spiega al giovane giardiniere ciò che vuole. Si ritiene timida, già mia madre si riteneva timida, e poco identificata nel suo ruolo. Di rado ricollego la bella donna alta e bionda con la bambina che ho messo al mondo e allattato, forse anche perché ha dei figli pure lei. Soltanto quando sento all'improvviso la sua voce al telefono, tenera, nel suono gutturale delle R, Colomba, le dico, Colombella, tigrotta, come quando era bambina. Durante le lunghe settimane passate nell'ospedale, dove in un altro reparto lavorava lei come pediatra, la sentivo avvicinarsi nel corridoio. Come il passo di suo padre, anche il suo è l'incedere rapido e leggero d'una persona più agile del suo peso. Mentre cammina, le sue caviglie inoltre scricchiano leggermente. Le caviglie di merda, oppure le vene di merda che mi hai fatto, mamma. I suoi difetti, o quelli che ritiene tali, li fa risalire volentieri a me o ai miei errori. Mi ha persino accusata di averla fasciata da neonata come si usava 100 anni fa, perciò le è venuta la pancia. Ogni tanto mi difendo, guarda che ti ho messo il cerotto sull'ernia ombelicale, guarda che le vene varicose discendono anche dagli jar e così pure la pancia, ma non oso dire che io la pancia non l'ho mai avuta. Cammino inosservata dietro di lei nel vivaio. Occhieggio con il consueto sguardo di cleptomane tra i vasi. Sono tanti, nessuno si accorgerebbe se ne portassi via uno. Mentre lei procede, scricchiolante e altera. Penso alle mie ortensie così magre. Quelle di Laura, mia figlia, sono sempre splendide. Fa germogliare patate americane in lunghi getti arricciolati e i suoi gerani fioriscono 2 settimane prima dei miei. Interrogata da piccola su quel che voleva fare da grande, aveva risposto «la signora, come la mamma». E invece lavora, come ho lavorato io e prima di me mia madre. Nel mio distacco di cucola ogni tanto trasalisco, non le avrò caricato un peso troppo pesante sulle spalle. Ora lei accenna all'ignoto destinatario della vite. Io intanto considero le rose rampicanti allineate con il loro cartellino in lunghe file. Non indovino mai se quelle sue storie, il giovane destinatario della vite è separato dalla moglie e ha un terrazzo esposto alle indagini di vecchiette che gli stanno di fronte. Non indovino mai se siano messaggi oppure comunicazioni casuali. La sospetto di avere un qualche suo appuntamento con una parte di me che preferirei non identificare. Sarà quel nostro bizzarro superio a cui lei ogni tanto accenna, maledetto, sfuggito di tra le maglie di un'educazione piuttosto selvatica, adesso corre in giro per conto proprio e si spaccia per me. Sono lentissima nel cogliere il filo dei discorsi di mia figlia, che seguono un tracciato intimo che non corrisponde al mio. Adesso mi sorprendono gli uomini che lei dichiara affascinanti, persino gli attori. Decido per una rosa rampicante gialla. C'era una rosa rampicante gialla sul pollaio a Torre Pellice. Oppure era bianca, di quelle che fioriscono subito e si aprono rivelando un cuore giallo-marrone come tinto con il tè. Mia figlia mi racconta del bambino. Trovo che lo ragiona troppo, ma scelgo di tacere. Come taccio per l'ennesimo spostamento di mobili, anche se l'armadio all'entrata sta proprio male. Taccio, sorniona, e mi riposo. Mia figlia mi continua con gesti suoi, mentre fa germogliare patate e gerani. Nata tutta intera e perfetta, non dal mio utero, ma dal mio animo. Armata non da me, per fortuna, e non con le mie armi. La nostra parentela sta in miei desideri attuati, rarefatti però nella mia coscienza, al punto che mi è difficile ridestarli. Se la vedo vivere e agire, essa colma quei desideri espulsi dalla determinatezza della mia maturità. Ciò sempre con qualche ansia. Non solo Laura mi è imprevedibile, ma mentre accade che io tema per l'incolumità dei suoi fratelli, li abbraccio e bacio come se fossero ancora i miei piccoli, ho paura di perdere la confidenza con lei, seppure incerta e raramente parlata. Com'ero io da giovane donna? Mi ero sposata nel dicembre del 49. Avevo conosciuto Gianni nel giugno dell'anno prima e dopo 15 giorni avevamo deciso di sposarci. A decidermi così rapidamente, avevo sempre esitato quando qualcuno in precedenza mi aveva proposto il matrimonio e non avevo mai pensato di sposare il mio così follemente amato A. A decidermi era stato un colpo di fulmine, non tanto di amore, non solo di amore, quanto di sicurezza. Gianni era largo, biondo, lentiginoso, non più alto di me, via via che invecchia diventa grigio su un rossastro che prima non si notava. Mi erano sempre piaciuti gli uomini alti, magri e bruni e avevo tenuto appese alla parete le foto di Gregory Peck. Da Gianni mi veniva però una persuasione abbagliante in cui si fondeva la sua passione per me e la sua geniale intelligenza. A questa persuasione cedetti come a un'avventura che mi portasse l'incanto della prima esperienza reale. L'amore non ritornava a me e non era nemmeno conquista. Mi veniva dal di fuori, si imponeva come una scelta mondana. Scelsi esattamente l'uomo che il futuro mi suggeriva di scegliere. Feci un matrimonio di interesse, in cui l'interesse non andava al denaro che mi era indifferente. Fummo poveri in canna, ma alla superiorità dell'uomo che voleva sposarmi. Fui molto felice nei primi anni del mio matrimonio. Di quando correvo giù per il prato di Torre Pellice, nel mio essere felice ricostruisco soprattutto la sensazione che da me cadesse, sfogliandosi, ogni sgradevolezza. Non era ancora felicità e già non lo era più, mentre mi invadeva la certezza «io posso». Dicendo «io posso», lasciavo cadere la tensione della difesa. Quanto al resto, la felicità andrebbe raccontata proprio come in una sequenza di pubblicità alla televisione. Essa è infatti del tutto priva di ironia. A 34 anni, dopo 10 di matrimonio, aspettavo il mio quarto bambino. Non era stato un figlio previsto, ma ero molto contenta perché mi piaceva avere figli e non credevo di averne altri. Il mio terzo aveva 3 anni e mezzo. Avevamo passato, mio marito ed io, le vacanze di Natale con i bambini in Val di Susa, nella casa che affittavamo per tutto l'anno. Durante quelle vacanze ci era parso di avviarci a un'intesa fisica che era mancata sinora nella nostra unione, mancanza di cui non risentivo, come accadde in seguito quando acquistò il significato di un oggetto desiderato e non posseduto. Non ne risentivo, occupata com'ero a fare bambini, ad allattarli, a cambiare casa, di appartamento in appartamento, uno sempre più chiaro e grande e bello, come le case di mia madre nella mia infanzia, tanto che mi sembrava di avere esattamente quel che desideravo. Intorno a me tutto aveva la stessa luminosa chiarezza, in cui a ogni domanda veniva una risposta. Delle nostre vacanze di Natale ricordo la gioia pressoché complementare dell'amore di notte e dello sci di giorno, quando sentivo di prendere a poco una certa sicurezza delle gambe e della schiena nell'andare su e giù sui campetti dietro casa. Alla mia felicità contribuiva in generale anche il fatto di avere poco denaro, di dover fare debiti e poi risparmiare per pagarli, di organizzare la nostra vita con questo poco denaro. Tenevo con cura il libro dei conti giorno dopo giorno, insegnavo fuori Torino a Settimo e viaggiavo avanti e indietro o in treno o in pullman. Non avevamo l'automobile, la prima la comperammo 9 anni dopo che ci eravamo sposati. Ricordo la felicità dei miei piedi gelati d'inverno mentre guardavo fuori dai vetri del pullman la pianura distesa oltre Torino verso Milano, solcata dai puntini neri dei tralicci. Non posso che ripetere la parola felicità, anche se i dettagli che mi vengono in mente non hanno nulla di particolarmente felice. Patrizia Zappa Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarre. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.